La guerra scoppiò mentre erano immersi nell'inusuale quiete delle vacanze estive. Il bollettino parrocchiale diceva: il vicario aveva appena lasciato East Burnham quando è stata dichiarata la guerra. Il vicario aveva una fibra più resistente della loro. Lui continuò le sue vacanze mentre i Willhouse tornarono a Londra. Era la prima volta che Laura vedeva Londra in agosto. Aveva un aspetto sospeso, come se la guerra fosse una specie di autunno prematuro. Laura ne fu straordinariamente commossa. Mentre attraversavano il fiume sul ponte di Waterloo, le veniva da piangere. Quella sera Fancy andò di sopra e, tanto per tenersi occupata, si mise a pulire il pavimento del solaio. Rovesciò il secchio e sul soffitto della stanza di Laura comparvero grandi macchi di umidità. Per un mese Fancy si comportò come una gatta a cui abbiano annegato i gattini. Se la famiglia non fosse stata così presa dalla guerra, quel cambiamento li avrebbe preoccupati, ma data la situazione lo notarono a stento. Quando un giorno Fancy si presentò a pranzo con molto ritardo, annunciando: «Sabato mi sposo con Kit Bendigo», Harry rispose: «Benissimo, cara, contenta tu?» E ordinò che si andasse a prendere in cantina una bottiglia di champagne. Per un momento allora sembrò di sentir parlare suo padre. Sapeva che Harry disapprovava la scelta di Fancy. I Willhouse non si accoppiavano con i Bendigo, ma ormai era più che rassegnato, era pienamente accondiscendente. Così, senza batter ciglio, Harry ingoiò il moscerino insieme al cammello, e se proprio in quella circostanza Laura avesse voluto essere maligna, se ne sarebbe stupita, perché l'impresa più ardua era proprio inghiottire il moscerino. Un Willhouse non si sposa con 5 giorni di preavviso. Tuttavia il matrimonio di Fancy fu celebrato quel sabato e i suoi genitori scoprirono che uno sposalizio affrettato può costare quasi quanto quello più ossequioso dell'etichetta, il che, nell'umore in cui erano, fu per loro una piccola soddisfazione. Kit Bendigo rimase ucciso nel dicembre del 1916. Fancy ricevette la notizia senza scomporsi. 2 anni di lavoro a sostegno dello sforzo bellico con l'aggiunta di una figlia le avevano calmato i nervi. Certo, povero Kit, ma c'era la guerra e in guerra si muore. Sera, per questo, il capannone dove lavorava lei era zeppo di esplosivi. Caroline non riusciva a capire la figlia maggiore. Era perplessa e infastidita dalla piaga che aveva preso in Fancy il buon senso ereditato da lei stessa. La monaca maritata guardò l'orbata Mazzone e rifiutò di ingaggiare battaglia. Se almeno Fancy fosse rimasta nel suo costosissimo appartamento a fare da madre a sua figlia. E invece si infilò un paio di guanti da lavoro e andò in Francia a guidare i camion. Caroline non osò dire una parola. Per Laura la guerra non era stata motivo di altrettanta eccitazione. 4 volte alla settimana andava a far pacchi in un deposito e li faceva così bene che nessuno pensò mai di offrirle un altro incarico. La sala dei pacchi era fredda e ingombra di merci. All'inizio della guerra qualcuno aveva appeso alle pareti i manifesti per il reclutamento che con il tempo si erano sbiaditi. Il giovane rubicondo e la madre spartana sbiancavano come di paura e il mantello scarlatto che la Britannia trascinava sulle acque si era scolorito in un roseo marroncino. Laura li guardava impallidire, soffocando la voce del cuore. Non si sarebbe consentita di cedere al facile simbolismo che ispiravano. Il tempo poteva scolorire le guance dei ragazzi e il mantello della Britannia, ma il sangue restava rosso come sempre. Eppur nel suo disperato disaccordo, Laura era convinta che quel sangue venisse versato per lei. Continuò a far pacchi fino all'11 novembre 1918. Quel giorno, sentendo le grida di gioia e il suono dei clacson, lasciò il lavoro e tornò in Apsley Terrace. La casa era vuota, erano tutti fuori a far festa. Laura salì in camera sua e si mise a sedere sul letto. Si sentiva tutta infreddolita e aveva la nausea. Tremava da capo a piedi, come le era successo una volta dopo aver assistito a un combattimento di cani. I clacson delle auto suonavano tutti. Sembrava che dominassero gli altri rumori della festa con un'enfasi sarcastica. Laura si alzò e passeggiò per la stanza. Sulla mensola del caminetto c'era una fotografia di Titus. «Bene», disse Laura rivolta al nipote. «Tu comunque l'hai scampata!» La sua voce suonava dura e reale, e lei ebbe l'impressione che le pareti della stanza tremassero all'impatto come le pareti di un palcoscenico. Si sdraiò sul letto e un attimo dopo svenne. Quando riprese i sensi, era stata ormai trovata e messa a letto da Caroline. Aveva l'influenza. Di questo si sentì riconoscente, come della penombra nella stanza e dei bicchieri freschi e tintinnanti. Provò gratitudine persino per gli incubi che venivano ogni notte a farle salire la febbre. Con il loro aiuto riuscì a restare a letto per 15 giorni, cosa che non le era mai successa da che si era trasferita a Londra. Quando si ripresentò da basso, trovò Harry e Caroline che parlavano dei giorni migliori che li attendevano. Pur essendo immutata, la casa era pervasa da una generale atmosfera di rinnovamento. Anche Lora, dopo le 2 settimane trascorse a letto, si sentiva in un certo senso rinnovata e si lasciò presto coinvolgere nella conversazione sui tempi migliori. Non c'era nulla di eccessivo nel modo in cui la famiglia esprimeva la propria soddisfazione. Harry trovava sempre di che accigliarsi leggendo il Times e Caroline non si lasciava sfuggire la più piccola occasione di risparmio. Tuttavia erano soddisfatti, seppure in sordina, da bravi Willows. Soddisfatti di un albero genealogico che aveva superato la tempesta con fibra giovane e risoluta. Su questo Lora non trovava nulla da ridire. Era piuttosto orgogliosa del comportamento dei Willows durante la guerra, ammirava l'imperturbabile decoro con cui avevano padroneggiato 4 anni di disintegrazione, un decoro tuttora imperturbabile e pieno di dignità. Una volta una conoscente aveva chiesto a Harry: «Che cosa fate durante gli attacchi aerei? Andate in cantina o in soffitta?» «Nessuna delle due cose», aveva risposto Harry. «Restiamo dove siamo». Lora si era sentita percorrere da un brivido all'udire lo spirito dei Willows così espresso in una sola frase. Più tardi però si era interrogato sul valore di quel brivido. Era forse diverso dalla reazione emotiva che aveva davanti ad altri simboli antichi e gloriosi, come le parate con le bandiere il 15° capitolo della lettera ai Corinzi. Troppo antichi e troppo gloriosi per fare appello in lei alla capacità di ragionamento? Si rendeva conto che per Harry e Caroline restare dove erano era stato un gesto ammirevole, ma al contempo era consapevole, più di quanto lo fossero loro, del fatto che i membri più giovani della famiglia si erano in un certo senso spostati su nuove posizioni. Lei stessa del resto non si era allontanata fino a tendere la corda che la legava ai suoi ormeggi saldi e profondi come erano. Ma ora le onde battenti andavano ritirandosi e Lora cominciava a tornare al proprio posto, ritrovando indisturbate intorno a sé le ombre degli oggetti sconosciuti. Esternamente, nel loro modo di recuperare la pace, tra lei, Harry e Caroline, non c'era alcuna differenza, se non che per loro due la guerra era un'esperienza conclusa, pensava Lora, mentre lei l'aveva semplicemente accantonata come per un turbamento della coscienza. Quando i tempi migliori che dovevano arrivare arrivarono, si rivelarono plasmati in tutto e per tutto sui tempi passati. Era straordinario quanta poca differenza facessero le differenze. Quando tornarono per la prima volta a East Bingham, data la sua importanza militare, infatti East Bingham era stata per un certo periodo sconsigliabile come luogo di villeggiatura, trovarono molte tracce della guerra, quali sacchi di sabbia e reticolati di filo spinato. L'estate seguente, però, i sacchi, i marci, si erano spaccati e il filo spinato era stato assorbito dalle recinzioni dei contadini. Così, pensava Lora, avrebbero potuto scomparire dal paesaggio di famiglia fenomeni da tempo di guerra come Mr. Wolf Saunders, il secondo marito di Fancy, o Jemima e Rosalind, le sue due figlie. Del resto, Mr. Wolf Saunders, disteso sulla spiaggia, era alquanto simile a un sacco di sabbia e non attirava di più lo sguardo. Jemima e Rosalind, invece, erano più invadenti. Ecco una nuova generazione pronta a chiamarla zia Lolly e a ritenerla indispensabile quanto alla precedente. «È proprio come ai vecchi tempi», osservò Caroline, che lavorava accanto a lei. «Non sembra anche a te, Lolly?» «A parte certi nuovi arrivi», rispose Lora. Caroline tolse l'alga che Jemima le aveva infilato nella borsa da lavoro. «Benedette bambine!» disse in tono distratto. «Presto saremo di nuovo in città!» Parte seconda. I Willows tornarono a Londra intorno alla seconda settimana di settembre. Per molti anni la riapertura delle scuole aveva condizionato la data del loro rientro e quando le bambine erano diventate troppo grandi per andare a scuola, l'abitudine era ormai troppo vecchia per essere cambiata. Ma c'era anche un'altra ragione. Dopo la seconda settimana di settembre le foglie cadute, così pensavano Harry e Caroline, rendevano la campagna poco salubre. Talvolta, quando era più giovane, Laura aveva tentato di far loro notare che, ammesso che le foglie appassite fossero poco salubri, in quel periodo dell'anno erano ancora tutte verdi e attaccate ai rami, ma il suo veniva considerato un mero cavillo. Passando per Kensington Gardens, la prima domenica dopo il rientro, indicando i viali che andavano spogliandosi, Caroline diceva: «Vedi, Lolly, cominciano a cadere le foglie. Era proprio tempo di tornare a casa». Inutile ribattere che a Londra l'autunno comincia prima, come Laura ben sapeva. Era per quello che non le piaceva tornare. L'autunno non le portava niente di buono ed era difficile accettare di rinunciare con un viaggio in treno di un solo giorno a quasi un mese di sospensione della pena. Guardando docilmente i viali che andavano spogliandosi, Laura sapeva che stava per capitarle di nuovo. Che cosa esattamente non avrebbe saputo dirlo. A volte pensava che dovesse trattarsi dell'annuale riverbero di quei primi mesi infelici trascorsi a Londra, quando il dolore per la morte di suo padre era ancora fresco. Nessun altro inverno era stato più freddo e più lungo, neppure i lunghi e freddi inverni della guerra. Ma ora, quando pensava a Everard, era con dolcezza e senza dolore, e da tempo ormai si sentiva indulgente verso la propria pena. Se l'arrivo dell'autunno avesse risvegliato in lei solo un dolore già provato, non l'avrebbe temuto tanto, né si sarebbe sentita così inquieta e tormentata. Quel turbamento non aveva attinenza con la sua vita. Saliva dal terreno con l'odore delle foglie morte. La seguiva per le strade all'imbrunire e sorgeva innanzi a lei alla vista della luna alta nel cielo. «Adesso! Adesso!» diceva. E niente più. Sembrava che la luna avesse strappato le foglie dagli alberi per poterla fissare più imperiosa. A volte Laura cercava di spiegarsi il proprio malessere dicendosi che stava invecchiando e che l'anno che moriva le rammentava la sua stessa morte. Si paragonava a una ghianda che matura e nei giorni e nelle notti autunnali e senza vento sente la terra tirarla a sé con forza sempre maggiore. L'immagine era molto poetica e appropriata, ma non spiegava ciò che lei sentiva. Non era smodatamente ansiosa né di vivere né di morire. Perché allora l'ansia la straziava? In quel periodo andava soggetta a strane fantasie, così vivide da rasentare l'allucinazione. Si vedeva in campagna, al crepuscolo, da sola, in uno stato d'animo stranamente sereno. Non aveva affatto in mente i luoghi che aveva visto durante le vacanze. Quelli la rimproveravano come opportunità sprecate. Mentre il suo corpo sedeva davanti ai suoi primi fuochi accesi nel camino e si sentiva a suo agio in compagnia di Harry e Caroline, la sua mente vagava lungo coste solitarie, tra acquitrini e paludi, o arrivava al calar della notte sul limitare di un bosco. Laura non si immaginava mai in quei posti alla luce del giorno, né le capitava di considerarli belli. Non era la bellezza che voleva. Se così fosse stato, depressa com'era, avrebbe comprato un biglietto per una qualsiasi stazione fuori Londra e sarebbe andato ad ammirare le languide grazie autunnali della campagna. La sua mente inseguiva a tentoni qualcosa che sfuggiva all'esperienza, un qualcosa di rarefatto e minaccioso e che tuttavia per qualche ragione le era affine. Un qualcosa che si celava in luoghi tetri, evocato dal rumore dell'acqua che gorgoglia in canali profondi e dal canto sinistro degli uccelli notturni. Solitudine, desolazione, propensione a far paura, una sorta di pagana sacralità. Queste erano le cose che attiravano i suoi pensieri lontano dal fuoco che ardeva sereno nel camino. Quando era di questo umore, a volte usciva a esplorare le chiese delle City o si perdeva nei quartieri che costeggiavano il fiume a est dei Docks. E piaceva pensare alla Londra della peste di Dufaux e immaginarsi a vivere nel Seicento, quando, così le sembrava, nella mente degli uomini regnavano ancora le tenebre. Una volta, circondata dalle lapidi accalcate di Bun Hill Fields, fu sul punto di imbattersi nella chiave della sua inquietudine. E un'altra volta ci arrivò vicina allo scalo merci della Great Western Railway, dove era andata a cercare non il suo segreto, ma una cassetta di mele per Caroline. Con il passare del tempo, Laura si abituò a questa ricorrente febbre autunnale. Era un segno della stagione, né più né meno come le foglie che cadevano nella primavera. Entro la fine di novembre era tutto passato e dimenticato. La luna seguente non le portava alcun messaggio. Le peregrinazioni per i luoghi misteriosi della mente erano finiti e se ancora si spingeva fino a Rotherhithe o al cimitero ebraico, cercava semplicemente un diversivo. Non rimaneva altro che il freddo, il nevischio e la consapevolezza che tanta agitazione era per nulla. Si rafforzava contro la tristezza di questa reazione concedendosi alcuni piccoli piaceri con cui si era fabbricata una specie di pelliccia mentale. Poteva ad esempio comprare le calde arroste per portarsele in camera e i negozi di libri usati non erano mai allettanti come in quella stagione. Inoltre, la somma dei venti dell'est con l'acqua di Londra la autorizzava a sperimentare i saponi più costosi. Di ritorno dalle sue spedizioni, rivolta a ovest con il tramonto negli occhi quando era stata in città o est quando si lasciava alle spalle Kiev, si fermava a gustare un tè sontuoso e furtivo e mangiava marron glacé con una forchettina d'argento nel caldo luccichio di specchi di un'elegante pasticceria. Tutte cose abbastanza eccitanti da darle piacere visto che le teneva segrete. D'altra parte, se l'avessero saputo, difficilmente Harry e Caroline avrebbero trovato qualcosa da ridire. Erano indifferenti al luogo e al modo in cui passava i suoi pomeriggi e non sentivano il bisogno di interrogarla, sicuri com'erano che non avrebbe mai fatto niente di sconveniente o di smodato. Le sue spedizioni rimanevano segrete perché nessuno le domandava dove era stata. Se glielo avessero chiesto, si sarebbe sentita obbligata a rispondere, ma non si soffermava a rifletterci. Le piaceva pensare che fossero un segreto. Ci fu tuttavia un aspetto della politica della pelliccia di cui Harry e Caroline non poterono essere tenuti all'oscuro, e questa contribuì a temperare la loro convinzione che Lora non avrebbe mai fatto nulla di sconveniente o di smodato. A parte il graduale accumularsi di regali di Natale e compleanno, la camera di Lora era cambiata ben poco dal giorno in cui aveva smesso di essere la stanza degli ospiti per diventare la sua, se non che ogni inverno vi sbocciava un tripudio di fiori del tutto fuori stagione che aveva l'abbondanza e la sfacciataggine di una serra. «Ma Lolly, gigli in questo mese?» diceva Caroline, non in tono di rimprovero, ma sottintendendo pur sempre che nel soggiorno c'erano dalie e in sala da pranzo una felce, mentre nel suo salottino, dove teneva la contabilità, non c'erano né le une né le altre. Allora, Lora le metteva in mano i gigli e Caroline li accettava per dimostrare che non aveva voluto dire nulla di male, senza contare che in effetti Lolly se li sarebbe goduti di più in salotto. Il giorno dopo Caroline la incrociava sulle scale con in mano un mazzo di azalee. Una volta persino Harry aveva notato lo splendore dei gigli, gigli rossi, spigolosi, autoritari nella forma quanto nel colore, come il cappello di un cardinale. «E questi da dove sbucano?» aveva chiesto Caroline, ben sapendo che fiori dall'apparenza così costosa non potevano venire dal suo fiorista. «Dall'Africa», aveva risposto Lora, stringendo in mano i gambi turgidi e bagnati. «Beh, immagino che siano fiori piuttosto comuni da quelle parti», si era detta Caroline, cercando di dissimulare il leggero imbarazzo che provava nell'accettare un piccolo lusso così inutilmente splendido. Anche Harry aveva chiesto di dove venissero. «Da Anthos, credo», aveva risposto Caroline. «Ah», aveva commentato Harry, facendo tintinare le monete nella tasca dei calzoni. «Lolly è un po' sventata in queste cose. Vuoi che le faccia capire che deve avere un po' più di criterio? Ma no, meglio di no, non c'è bisogno che si preoccupi di queste cose». Marito e moglie si scambiarono un'occhiata carica di generosa comprensione. Era meglio di no, molto meglio che Lolly non si desse pensiero per questioni di denaro. Era al sicuro nelle loro mani, sapevano badare a lei. Harry era come una muraglia e i seni di Caroline come due torri. Lasciarono correre quel piccolo spreco, ma continuarono a considerarlo con diffidenza. Il tempo giustificò poi quella loro sensazione, come molte persone stupide possedevano un istinto sottile. Colui che è fedele nelle più piccole cose, sentenziava sempre Caroline quando le bambine dimenticavano di caricare l'orologio. L'istinto diceva loro che lo stesso principio si applica ai più piccoli sprechi ed erano più vicine alla verità di quanto credessero. Quando la prodigalità di Laura emersi anche nelle questioni importanti, rimasero talmente esterrefatti da dimenticare con quanto buon senso l'avessero prevista molto tempo prima. Accadde nell'inverno del 1921. La guerra era belle passata, come erano passate le loro nozze d'argento e il primo parto di Marion. Titus frequentava il terzo anno a Oxford, Sibyl cominciava finalmente a ingrigire e Harry stava per essere nominato giudice da un giorno all'altro. Cedole e dividendi lasciavano un po' a desiderare e c'era ancora in giro l'influenza, ma a Harry le cose andavano abbastanza bene da permettergli di dimostrarsi indulgente nei confronti dei propri investimenti, tanto più che zia Lucilla aveva reso l'anima a Dio, così che il suo patrimonio era stato misericordiosamente restituito al mondo. Caroline propose di far risistemare la casa da cima a fondo in primavera. Nel frattempo cominciò a provvedere ai dettagli. E per questo Laura era uscita prima che i negozi chiudessero, per mostrare a Mr. Bunting un paio di massicci candelabri e sapere quanto sarebbe costato rifare la placcatura. Il preventivo era alto, troppo alto perché Laura potesse prendersi la responsabilità di accettarlo, così decise di riportare a casa i candelabri e chiedere il parere di Caroline. Mr. Bunting abitava a Earls Court Road, piuttosto lontano per un caro amico di famiglia come lui. Ma Laura aveva tutto il tempo per tornare a casa a piedi e tanto per fare qualcosa di diverso decise di seguire un itinerario tortuoso che passava davanti alle due volpi di guardia all'ingresso abbandonato di Holland Park e proseguiva per la vietta accanto alla sinagoga di Bayswater. Fu in Moscow Road che cominciò a sentirsi spendacciona. Tuttavia, quando entrò nel negozietto, non aveva cattive intenzioni, dato che dal braccio le pendeva il pacco di Caroline a ricordarle il suo dovere, e la bottega, a metà tra il fiorista e il fruttivendolo, aveva un'aria modesta. C'erano molti altri clienti e Laura, mentre aspettava di essere servita, ne approfittò per guardarsi in giro. L'aspetto del negozio le piaceva molto, era piccolo e senza pretese. Frutta, fiori e verdura erano tutte ammassate insieme in un rustico disordine. Sul piano inclinato della vetrina, tra le mele, le pere da cuocere con la buccia ruvida, i vassoi di noci, castagne e noccioline, c'era un cesto di uova lisce e scure, quasi fossero un ulteriore tipo più grande di frutta secca. Sul lato della stanza c'era uno scaffale di legno, coi barattoli di marmellata fatta in casa e le bottiglie di frutta sciroppata. Era come se i resti dell'estate avessero cercato rifugio in quel negozio. Sul pavimento c'era un mucchio di rape sporche di terra. Laura guardò le bottiglie di frutta sciroppata, le fette di pere, le lucide prugne rosse, le susine. Pensò alla donna che aveva riempito quei barattoli e li aveva sigillati. Forse la madre del fruttivendolo abitava in campagna. Una vecchia solitaria che raccoglieva i frutti nell'orto all'imbrunire, passando le dita ruvide sulla pelle liscia delle prugne. Una vecchia scarna e forte, con le braccia alzate in mezzo agli alberi da frutto. Come fosse anche lei un albero cresciuto tra l'erba alta, le braccia protese come rami. Si faceva sempre più buio e lei continuava a lavorare, spogliando metodicamente l'uno dopo l'altro i rami tesi e tremanti. Mentre aspettava il suo turno, Laura si sentì pervadere da un'immensa bramosia. Le pesava addosso come a un albero un carico di frutti maturi. Dimenticò il negozio, gli altri clienti. E la sua commissione. Dimenticò l'aria invernale, la gente che passava sui marciapiedi bagnati. Dimenticò di essere a Londra. Dimenticò completamente la sua vita di quegli anni. Le sembrava di essere da sola, in un orto all'imbrunire, con i piedi nell'erba, le braccia tese verso il disegno delle foglie dei frutti, mentre le sue dita cercavano gli ovali arrotondati degli uni tra gli ovali appuntiti delle altre. L'aria intorno a lei era fredda e umida. Non si udiva alcun suono, perché gli uccelli avevano smesso di cantare e le civette non avevano ancora cominciato a gridare. Nessun suono, tranne il tonfo sordo delle prugne mature che cadevano di tanto in tanto sull'erba e lì restavano, ombre solide tra le ombre. La nuca le doleva un po' per lo sforzo di tenere le braccia tese, le sue dita cercavano tra le foglie. Trasalì. Quando l'ortolano le si avvicinò e le chiese cosa desiderava, Sbatté le palpebre e guardò sorpresa i guanti che le coprivano le mani. «Voglio uno di quei grandi crisantemi», disse, e si voltò verso la vetrina dove si trovavano i fiori infilati in un vaso marrone. Eccole lì, le mele e le pere, le uova e la frutta secca che traboccava disordinatamente dal posto assegnatole. Ecco le rape sul pavimento, sporche di terra, e a portata di mano le marmellate e i vasetti di frutta. Se si stava comportando da sciocca, se sembrava una donna che si era appena destata da uno splendido sogno, quella era una dolce vista a cui svegliarsi. Anche l'ortolano aveva un viso dolce. Indossava un grembiule da giardiniere e le sue mani erano scure e secche, come se avessero lavorato con la terra. «Quale vuole, signora?» chiese girando il mazzo di crisantemi in modo che potesse scegliere da sé. Laura guardò ai grandi fiori simili a palle di stracci sfilacciati. I petali ricurvi erano rosso cupo all'interno e giallo fulvo all'esterno. Quando la luce colpiva le loro carni lucide, il rosso cupo avvampava e il giallo fulvo impallidiva come fosse appena spruzzato d'argento. Laura non vedeva l'ora di poter accarezzare quelle sfere di petali. «Credo che li prenderò tutti», disse. «Sono fiori bellissimi», osservò l'ortolano. Era compiaciuto. A quell'ora non si aspettava più una buona cliente come lei. Al momento di portarle il resto della banconota da una sterlina, aggiunse ai crisantemi avvolti nella carta bianca anche parecchi ramoscelli di faggio. Quelli, spiegò, erano in omaggio. Laura li prese tra le braccia. I grandi ventagli di foglie decorati di ruggine le sembravano ancora più belli dei crisantemi perché le erano stati dati in dono. Erano una sorpresa. Li annusò. Profumavano di boschi scuri e fruscianti, come quello sul cui limitare giungeva tanto spesso nella campagna delle sue fantasie autunnali. Rimase immobile, per essere certa delle proprie sensazioni. Poi chiese: «Da dove vengono?» «Da un posto vicino a Chenny, signora, nel Buckinghamshire. Ho una sorella che abita lì. Vado a trovarla tutte le domeniche e al ritorno mi porto via un carico di frasche.» Non c'era più bisogno di chiedere chi facesse le marmellate e chiudesse ermeticamente i barattoli. Laura sapeva tutto quello che voleva sapere. Aveva chiara davanti agli occhi la via da imboccare. Reggendo i ramoscelli di faggio come se stesse marciando su Dunsinane, entrò in una libreria, comprò una piccola guida delle Chiltern Hills e chiese una cartina della zona. Doveva essere, precisò, una cartina molto dettagliata che riportasse il numero maggiore possibile di sentieri e località. I suoi occhi erano illuminati da una tale luce e le sue richieste erano fatte in tono così serio che il libraio, pur non avendo quel tipo di cartine, le indicò con molta sollecitudine un altro negozio in cui avrebbe trovato quello che cercava. Era poco distante, ma visto che si avvicinava l'orario di chiusura, Laura prese un taxi. Dopodiché, acquistata la cartina, si fece riportare a casa da un altro taxi. Ma appena imboccata Apsley Terrace, ebbe uno dei suoi accessi di segretezza e disse all'autista che avrebbe fatto il resto della strada a piedi. In anticamera la fece franca per un pelo, perché proprio nel momento in cui udì Harry salire dalla cantina, il pacco di Caroline le si impigliò nel piedistallo del gong. Se il gong avesse suonato, Harry avrebbe affrettato il passo. Non aveva tempo da perdere con lui in quel momento. Le restavano molte cose a cui pensare prima di cena. Corse di sopra nella sua stanza, sistemò i crisantemi e le foglie di faggio e cominciò a leggere la guida. Era proprio quello che voleva, estremamente semplice e impassibile. Cominciava subito con la geologia, poi passava a flora e fauna, corsi d'acqua, chiese, istituzioni religiose e organismi amministrativi. Seguivano tutte le città e paesi in ordine alfabetico con una breve descrizione. Lem's End contava 300 abitanti e aveva una fonte battesimale in stile perpendicolare. Walpole St. Denis era la residenza estiva della famiglia Bartlett, la cui villa, situata su un'altura, vantava una facciata decorata a stucchi. L'ospizio di Simply, costruito nel 1703 da Bettina Hood, aveva splendidi cancelli in ferro battuto. L'ora, al buio, premeva il naso contro volute e chiavarde. I pipistrelli svolazzavano nel cortiletto e ombre si muovevano dietro le tende gialle. Se fosse nata vedova bisognosa, la vita per lei sarebbe stata molto più semplice. Non perse tempo a rammaricarsene, dato che stava finalmente pensando a rendersi la vita più semplice, spiegò la cartina. I boschi erano colorati di verde e le strade principali di rosso, e il verde era tantissimo. Laura guardò i ramoscelli di faggio e, mentre li osservava, una foglia si staccò e cadde lentamente a terra. Le vennero in mente gli scoiattoli. Le scale scricchiolarono sotto il passo della Dunloop che portava la brocca dell'acqua calda. La donna entrò nella stanza senza degnare di uno sguardo né Laura, raggomitolata di traverso sul letto, né i crisantemi che nobilitavano la toilette. Era una domestica veramente finita. Prima di lasciare la stanza, trasse un profondo sospiro, si chinò e raccolse la foglia di faggio. Un quarto d'ora dopo, Laura esclamò: «Oh, un mulino!» Riprese in mano la guida e si reimmerse nella lettura.